Secondo te ha qualcosa da rimproverarsi la Fiorentina di ieri sera, oppure è proprio soltanto che era scritto nelle stelle? No, rimproverarsi credo niente, perché nei 180 minuti giocati credo che la Fiorentina abbia dimostrato di essere una squadra solida, una squadra importante. Purtroppo per una svista arbitrale a Monaco non ha passato il turno. Sì. Però credo che non abbia niente da recriminare assolutamente. Sì, perché alla fine è ovvio che è stato quello che ha fatto la differenza, ha pesato. Poi si può ragionare su come il Bayern magari avrebbe impostato la partita diversamente, certo, sull'1-1. Sì. Però quello indubbiamente rimane. Giancarlo, tu nella tua lunga carriera hai avuto momenti straordinari, hai avuto anche momenti difficili o grandi delusioni come ieri sera. Proprio a Montolivo, che oggi è il capitano, ma comunque ai tuoi eredi, che cosa diresti oggi per aiutarli a ripartire dopo una batosta così? Ma sotto l'aspetto, diciamo, psicologico c'è questa batosta, però sotto l'aspetto di gioco e di convinzione, quella della Fiorentina ieri abbia dimostrato di essere una squadra all'altezza. Non guardiamo la classifica quest'anno, che è un po' deficitaria, però credo che la Fiorentina anche a livello internazionale abbia dimostrato di essere una squadra solida, una squadra quadrata, una squadra che si è fatta valere, nonostante questa eliminazione, che sicuramente è stata un po' negativa come risultato, però insomma un po' immeritata. Giancarlo, sai che io faccio un po' di fatica, ti confesso, a parlare a te considerandoti lontano dalla Fiorentina, come sei oggettivamente oggi. In estrema sintesi, ma perché sei così lontano dalla Fiorentina, ed è una libera scelta tua o immagino altrui? No, penso altrui, perché la mia disponibilità nei confronti della Fiorentina è sempre stata positiva. Purtroppo la nuova proprietà non ha mai cercato di potermi inserire in questo contesto. Diciamo, il rimpianto da parte mia c'è oggi.